Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti da Frey, ben ritrovati in questa puntata di Van Loon, il programma a cura del caso S che il sabato pomeriggio vi accompagna alla scoperta della storia. Scoperta della storia che però non dimentichiamo è anche scoperta delle narrazioni della storia. Uno dei punti fermi della redazione di Van Loon è che la storia la si possa e la si debba anche raccontare in maniere diverse da quelle a cui siamo abituati dai manuali, dai saggi, da tutte le forme tradizionali, insomma, in cui questa disciplina è stata raccontata dai tempi di Tucidide in poi. In altre puntate, non a caso, ci siamo serviti della musica, dei fumetti e dei romanzi per vedere come la storia, in particolare quella contemporanea, sia stata raccontata. Proprio dai romanzi partiamo quest'oggi per entrare in un'altra storia. Come vedete, le letture ci aprono sempre nuove porte. Oggi entreremo tramite un libro in un romanzo che ci porterà alla scoperta di un autore. Quest'autore è Stefano Tassinari, uno degli ultimi intellettuali militanti rivoluzionari che abbiamo avuto, secondo noi. Il libro che andiamo a presentare è Stefano Tassinari, frammenti di cronaca e critica, scritto da Alberto Sebastiani, edito da Modo Info Shop. Alberto Sebastiani, che contatteremo fra poco al telefono, e che andremo a intervistare proprio perché venerdì prossimo alle ore 18.30 presso Modo Info Shop verrà presentato questo libro. Avremo quindi con noi al telefono Alberto Sebastiani, che è molto conosciuto in città come linguista e come filologo dell'Università di Bologna, ma anche come giornalista. Noi, fra le altre cose, per inciso, vi suggeriamo la lettura del suo bel saggio Le parole in pugno, lingua, società e culture giovanili in Italia dal dopoguerra a oggi, edito qualche anno fa da Magni. Nel corso della puntata vi racconteremo assieme ad Alberto Sebastiani quella che è stata la produzione culturale di Stefano Tassinari. Vi diamo subito alcune indicazioni per orientarvi in questo ascolto. Stefano Tassinari ha prodotto molte cose, noi ne citiamo solamente alcune, soprattutto a livello di romanzi. Citiamo quelli editi da Marco Tropea, I segni sulla pelle dedicato al G8, L'amore degli insorti sugli anni 70, Il vento contro che racconta la vita di Pietro Tesso, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, poi caduto in disgrazia e probabilmente ucciso da militanti partigiani comunisti stalinisti. E poi di Stefano Tassinari ricordiamo sempre anche altri testi editi invece da Alegre, come la raccolta di racconti d'altri tempi, anche questa dedicata agli anni 70, e invece altre due raccolte, Sorci Verdi sulla Lega Nord e Lavoro Vivo, dedicata al racconto del lavoro con altri scrittori. Entriamo in puntata subito, perché il tempo a nostra disposizione non è tantissimo e ci sarà molto da discutere. Ci entriamo ascoltando una canzone che vi abbiamo trasmesso un anno fa. Si tratta di Good Morning Baghdad della Casa del Vento e Stefano Tassinari. Ricordi le vite dissanguate di Milai, bambini senza volto tenuti per i piedi dai tuoi eroi, riempiti di eroina bruciavano nei campi le persone che tu consideravi soltanto musicali da stanare. America, ricordi quel tuo scappare in fretta da Saigon, napalm che tiravi con gli elicotteri sui contadini, di fronte a un mondo che per te vuol dire solo terra da spianare, va bene di culture che stai uccidendo e che non sai capire, ti regalano la vita, ti conviene a dire al mondo che la guerra è finita. Carnefice a Santi, ubriaco, e il fiato moribondo dei desaparecidos argentini, le foto da trofeo sui buchi sulla pelle di Guevara, e tu che resta bello perché Guevara non può mai morire, ti regalano la vita, ti continui a dire al mondo che la guerra è finita. Buongiorno ad Alberto Sebastiani, autore di Stefano Tassinari, Frammenti di cronaca e critica, e benvenuto a Vallun. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, partiamo da una prima domanda fondamentale. Chi è stato Stefano Tassinari? Qual è stato il suo percorso intellettuale, che come dicevamo in introduzione è stato veramente ricco e contraddistinto da una costante dimensione di impegno politico e militante? E poi domanderei ad Alberto, qual è l'immagine che tu ne hai ricostruito nel tuo libro? E la terza domanda, poi vorrei cercare di capire cos'è rimasto in città di Stefano Tassinari. Allora, ripercorrere la vita di Stefano Tassinari, la sua vita come persona, come autore, come operatore culturale, come regista teatrale, come autore teatrale, come militante, è veramente difficile, cioè comporterebbe probabilmente un dispendio di tempo notevolissimo. Però insomma, tra l'altro, se qualcuno è interessato, c'è il sito che è stato creato con il crowdfunding dedicato a Stefano Tassinari, in cui si cerca di ripercorrere diverse tappe della sua vita, che è stata decisamente intensa, possiamo dire. Rispetto a quello del suo lascito in città, diciamo che è sicuramente c'è, perché basta citare Stefano Tassinari, e per tante persone è un nome che apre non solo a una memoria molto forte, ma anche a uno stimolo al continuo impegno anche nell'oggi. In una città come Bologna, che è una città che secondo me è sempre stata in continuo cambiamento, e Stefano ha saputo leggerne tanti e ha saputo intervenire in tanti momenti della sua storia recente. Sì, fra l'altro la cosa che mi colpisce è anche un po' la diversità delle battaglie culturali e di impegno politico che ha portato avanti Stefano Tassinari. Ma la cosa che mi colpisce anche è vedere che in una città che è profondamente cambiata da quando Stefano Tassinari è morto, continui a rimanere forte questa sua immagine, anche con un certo interesse da parte dell'amministrazione locale, se possiamo dirlo. Sì, ci sono state diverse iniziative per ricordare Stefano, più che altro direi questo: il Stefano è stato sempre una persona che ha sempre aggregato altre persone e ha saputo farle lavorare insieme, ha cercato di farle lavorare insieme, di costruire insieme dei progetti. Stefano ha fatto questo per tanto tempo e con tantissime persone, e attorno a riviste, attorno a progetti editoriali, attorno a progetti teatrali, attorno a molte realtà che sono poi documentate, che hanno resistito anche dopo la morte di Stefano. E come ho cercato di raccontare nel mio breve omaggio sia al nostro rapporto d'amicizia, sia al suo lavoro come autore, come operatore culturale che io ho seguito sia come critico su riviste sia o su quotidiani, sia come cronista attraverso il blog che ho tenuto per diversi anni qua a Bologna, cioè caffèletterario.bo, sulle pagine bolognese di Repubblica.it. Ecco, attraverso questi scritti ho cercato di ricostruire un ritratto che raccontasse appunto quello che dicevi anche tu, ovvero questa persona ha fatto molto in questa città, ha lasciato un segno pesante in questa città, ma soprattutto ha lasciato un segno pesante nelle tante persone che hanno lavorato con lui. Parlo di scrittori, parlo di attori, parlo di musicisti, parlo di poeti, parlo di giornalisti, parlo di tante fotografi, artisti, attori, parlo di tante persone che lui ha saputo far convergere in progetti che ogni volta permettevano a persone anche molto diverse di incontrarsi e di generare qualcosa. Sì, infatti di questa bella eredità, diciamo, di Stefano Tassinari ne sono testimonianza due documenti, diciamo, che riciteremo in chiusura di puntata. Uno è il numero di Nuova Rivista Letteraria a lui dedicato, il numero 6 dell'ottobre del 2012, ma anche il bel documentario che era stato presentato al Biograph Film Festival del 2014, TAS, storia di Stefano Tassinari, in cui per l'appunto comparivano queste tante persone che lui ha fatto incontrare e ha fatto lavorare insieme. Sì, esattamente. Stefano Massari nel documentario ha cercato di fare un'operazione veramente difficile. Il documentario peraltro è visibile sul sito da Stefano Tassinari. E allo stesso modo nella rivista, nel numero di Nuova Rivista Letteraria, rivista che Stefano aveva ideato, fondato, attorno alla quale aveva raccolto molte persone, nomi sono tantissimi, a lavorare insieme a un progetto ben specifico, in quel numero lì tante persone hanno collaborato scrivendo il loro ricordo di Stefano, ma non tanto improntato a una costruzione quasi religiosa, mistica di figura, ma proprio cercando di pensare e di raccontare e di riflettere su quello che era stato possibile fare con lui e quello che era il suo lascito, ma lascito non da memoria personale, ma per l'azione, per il fare, perché per Stefano tutto era rivolto, tutta la cultura non era un piacere, il discorso culturale non era un piacere personale, ma era sempre uno strumento per agire, la base per agire, per fare cose. Allora, ecco, entriamo proprio quindi in quella che è stata l'opera di Stefano Tassinari, perché abbiamo deciso di presentare il libro di Alberto Sebastiani, Stefano Tassinari, frammenti di cronaca e critica, edito da Modi Infoshop, all'interno di Vallun, proprio perché Stefano Tassinari molto spesso si è confrontato con la storia, la tematica della storia, la tematica della memoria anche, e ci sono due strade che vorremmo prendere con Alberto Sebastiani per indagare questo percorso di Stefano Tassinari con la storia della memoria. Da una parte la sua attività come operatore culturale, come citava giustamente Alberto Sebastiani, quindi gli spettacoli all'ITC, all'ITC di San Lazzaro, e quella come, come autore. Allora, io direi di partire da quella come, come operatore, proprio in nome di questa cultura del fare di cui Alberto Sebastiani ci, ci parlava. Ci potresti raccontare cosa sono state le rassegne teatrali che lui ha curato per un periodo molto lungo da all'ITC Teatro di San Lazzaro? Guardando la parola, le date della parola immaginata che vanno dal 1998 al 2007, raccontando 2010-2011 e i ritagli di tempo dedicati al triennio fra il 68 e il 71, vediamo che la sua è stata un'attività molto costante e che ha portato in scena per l'appunto la storia, la memoria, ma anche la letteratura. Come, come si strutturavano, come erano costruiti questi, questi spettacoli? Allora, era un format che lui ha, ha poi applicato e ritoccato a seconda delle situazioni, degli specifici momenti, e in sostanza lui portava in scena la parola. La parola letteraria, ma non intesa solamente come discorso sulla letteratura. Lui portava in scena gli autori, portava in scena la lettura, portava in scena musica che secondo lui era legata a questi specifici percorsi che man mano portava in scena, e lo faceva, faceva tutto questo sostenendo anche una narrazione, portando in scena una narrazione. Questi lui, quando c'erano autori, li intervistava sul palco, ma tra letture, musica, immagini, fotografie, video, presente che Rai, e interviste agli autori, c'era la sua voce che teneva insieme questi elementi e costruiva un percorso narrativo, la teatro di narrazione, che coinvolgeva il pubblico, che portava il pubblico a conoscere determinati autori, e questi autori non solo per un discorso letterario, ma anche perché questi autori erano scelti perché legati anche in questo caso a un impegno che era politico, a un impegno di denuncia o di approfondimento di tematiche sociali. Per lui, ecco, la letteratura non poteva essere tolta, sottratta al discorso sociale, che è il discorso politico, e il teatro ha maggior ragione. Allora, ecco, in queste rassegne teatrali un bello spazio ha occupato anche, per l'appunto, anche il racconto degli anni 70, che, di cui mi viene in mente proprio parlando del suo impegno politico, che è stato un impegno politico militante, ma anche un impegno culturale nel riraccontare una parte della storia del nostro paese che, probabilmente questa è anche una domanda che ti faccio, probabilmente vedeva trascurata, vedeva dimenticata. Ricordiamo che oltre alla rassegna ritagli di tempo, Stefano Tassinari ha dedicato ben due libri al racconto degli anni 70, che sono L'amore degli insorti e La raccolta di racconti d'altri tempi. E cos'era il rapporto con gli anni 70 di Stefano Tassinari? Allora, prima di tutto Stefano Tassinari negli anni 70 c'era, li ha vissuti da militante, li ha vissuti nell'impegno politico, li ha vissuti nell'impegno sociale, li ha vissuti nello studio, li ha vissuti sotto tanti aspetti. Sugli anni 70 c'è una bibliografia che è sterminata ormai, oltre a documentari e a studi, a narrazioni, quindi ad essere letteratura che letteratura storica. Il problema, semmai, per Stefano, a mio parere, era che c'era fin troppo, e c'era fin troppa confusione, tanto che diciamo che gli anni 70 vivono ormai sotto quell'etichetta tombale che è anni di piombo, che è del tutto assurdo applicarlo ormai a tutto il periodo che è della contestazione, della cosiddetta contestazione, che lui appunto ha affrontato a partire dal 68 con i ritagli di tempo tra 68 e 71, e poi è andato a raccontare all'interno, come ho detto, di alcuni racconti, ma anche e soprattutto di un romanzo come L'amore degli insorti, in cui, anzi, lui racconta non in presa diretta, ma attraverso il recupero della memoria, ma non soltanto dei fatti, ma anche dei concetti, delle riflessioni, del senso delle parole che c'erano in quel tempo, e questa operazione la fa diventando un romanzo ai nostri giorni, negli anni zero, quando una persona si trova, che ha vissuto quegli anni intensamente, si trova a dover fare i conti con quel passato, perché viene chiamato in causa da qualcuno. Con una serie di lettere, insomma, di indicazioni che gli chiedono la ragione di certe azioni. Questo vuol dire fare i conti con se stesso, che vuol dire fare i conti con quegli anni, a ragionare con quegli anni, e però anche in questo Stefano si distacca sia dal mio punto di vista, dal reducismo, sia dall'autocritica, con quell'auto da sé che sembra essere stato richiesto per tutti gli anni intero a tutti coloro che avevano militato, partecipato alla contestazione in quegli anni. Un auto da sé al quale Stefano non ha assolutamente partecipato, come tanti altri intellettuali, tanti altri scrittori che a quegli anni hanno partecipato attivamente. E appunto nel suo romanzo emerge questa, secondo me la specificità di quel romanzo è che non è tanto la trama, perché il finale è prevedibile, ma è proprio tutto il discorso di recupero di certe parole che erano certi concetti che avevano un preciso significato e un preciso senso all'interno di quel particolare contesto, che oggi sembra subire una sorta di rimozione, a fronte di quanto però abbiamo detto di una bibliografia sterminata ormai. Questo vuol dire che c'è un problema, e Stefano ha voluto affrontare questo problema. Ecco, sulla questione dell'auto da fé che veniva richiesto ai reduci, a coloro che hanno attraversato gli anni 70, segnalo anche un racconto preso dalla raccolta D'altri tempi, che si intitola Parco Lambro 1975, in cui è tutto giocato proprio su questa voglia di non fare, questa volontà di non fare questo auto da fé, perché non se ne vede la necessità. Ma io, ecco, volevo chiederti proprio su questo discorso della memoria degli anni 70, una tua impressione. Leggendo L'amore degli insorti, soprattutto, io mi sono sempre chiesto se questa battaglia per il recupero di questa memoria, per ridare dignità a quel percorso, fosse rivolta a chi questo percorso non l'aveva vissuto, cioè quindi ai giovani, fra molte virgolette, banalizzando anche un po' una questione, oppure se fosse rivolto a quanti invece dei suoi coetanei, di coloro che avevano vissuto le sue stesse esperienze, invece quell'auto da fé l'avevano fatto. Allora, per Stefano il pubblico era importante. Stefano faceva teatro, Stefano scriveva, quindi aveva bisogno di pubblico e di lettori. Questo non vuol dire allora fare le cose che piacciono a tutti, essere condiscendente o ammiccante, eccetera. No, vuol dire aver ben presente che devi essere letto. Ma per Stefano essere letto, essere ascoltato in teatro, essere visto in teatro, era una questione politica. Per lui era una questione, chiaramente non stavo parlando di una persona che non aveva piacere a essere letto o che non era orgoglioso di vedere i suoi lavori ben riusciti, ma stiamo parlando anche di una persona che umanamente, come tutti, anche contenta di avere riscontro, aveva comunque ben chiaro che la questione era far sì che certi discorsi germoglino, certi discorsi raggiungano un pubblico e facciano ragionare un pubblico, offrire degli stimoli, lanciare dei progetti, dei percorsi. Questo è il senso di lavorare come lavorava Stefano. Io ripeto, quindi il lettore, il pubblico sono fondamentali. A chi parlava nello specifico? Non credo lui pensasse di volersi rivolgere necessariamente alle nuove generazioni o ai compagni coetanei. Non c'è, cioè, chiaramente il tema, diciamo, seleziona in parte il lettore, però non mi sembra fosse costruito in maniera divulgativa per il pensando a un pubblico di giovani, mi sembra piuttosto fosse costruito onestamente, come voleva far lui, per costruire un discorso in cui lui credeva, rispetto al quale, ecco, questo sì, cercava un pubblico anche di lettori, e questo sperava che fosse il più ampio possibile. Bene, l'ultima, grazie mille per questa tua opinione. L'ultima domanda che ti volevo fare era su l'altro libro che affronta una tematica storica, che è il Vento Contro. Il Vento Contro, dedicato alla figura di Pietro Tresso, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia. E ti volevo fare questa domanda perché qui ricorre nel raccontare la storia di Pietro Tresso e degli ultimi suoi giorni soprattutto, ricorre a un meccanismo diverso. Cioè qua costruisci veramente un romanzo dando voce a un personaggio che proviene dalla storia. Come viene raccontata la storia in questo romanzo? Pensi che ci sia un atteggiamento diverso nella cura della memoria rispetto a quanto Stefano aveva fatto nei confronti degli anni 70? Diciamo che Stefano rispetto a questo, in questo romanzo, è più diciamo didascalico, tra virgolette, nel senso che ci tiene a essere molto preciso certe cose, e però secondo me il momento chiave per capire quel romanzo lì è quando c'è la citazione di Gramsci. C'è il fatto di non doversi mai stancare di ripetere, anche che una persona non si deve mai stancare di ripetere cose anche note quando ad altri non lo sono, perché gli altri le capiscono. Per Stefano lì, nel termine di quel romanzo, l'aspetto centrale non era tanto la ricostruzione storica, quanto i comunisti abbiano avuto problemi conflittuali interni molto forti, e il conflitto con lo stalinismo sia stato uno degli elementi che si è trascinato per tutto il Novecento. E questo tra l'altro rientra anche in una prospettiva che Stefano negli ultimi tempi parlava in diverse interviste, l'aveva scritto, di riscoprire un comunismo anche in, se vogliamo, in una chiave libertaria. Diciamo che Stefano quindi ha, e questo qua secondo me è un filo rosso per entrare nel suo lavoro, come ho cercato di spiegare nel mio piccolo libro, il comunismo è un filo rosso, e soprattutto comprendere cosa significa il comunismo, cosa è stato il comunismo, cosa sia diventato e cosa fosse quando ancora Stefano era in vita, il comunismo e il significato della parola comunista e il significato concreto, cioè l'agire per il comunismo, fosse per Stefano. Quindi sicuramente questo è un filo rosso per seguire la sua intera produzione, di cui chiaramente Il Vento Contro è un romanzo che porta alle radici di uno dei problemi chiave, secondo Stefano, per capire come fosse stata sporcata, umiliata ed emarginata anche man mano la valenza positiva e la carica rivoluzionaria e di reale cambiamento che era propria del comunismo, secondo, in cui Stefano ha creduto fino alla fine. Abbiamo appena ascoltato Street Fighting Man dei Rolling Stone, un pezzo dedicato alle lotte degli anni 70, un pezzo che abbiamo scelto su suggerimento di Alberto Sebastiani, che abbiamo avuto con noi al telefono per parlare del suo libro Stefano Tassinari, Frammenti di cronaca e critica, edito da Modo Info Shop nella collana Fotocopie. E Alberto Sebastiani che ringraziamo, e adesso facciamo un attimo due approfondimenti per chi volesse andare ad approfondire, scusate la ripetizione, la figura di Stefano Tassinari. Quindi, oltre al libro che vi abbiamo presentato oggi, vi suggeriamo di andare, di recarvi al sito di cui si è parlato prima, www.stefanotassinari.it, in cui è possibile riscoprire molti dei suoi articoli, molto del suo lavoro, anche alcuni audio degli spettacoli, delle rassegne teatrali al Teatro ITC di San Lazzaro. Poi vi suggeriamo naturalmente il numero 6 dell'ottobre 2012 di Nuova Rivista Letteraria e il film documentario TAS, Storia di testa di Stefano Tassinari, sempre visibile al sito www.stefanotassinari.it, che è un bel documentario che io ho visto proprio in quell'occasione, proprio il Biograph Film Festival, e racconta molto bene Stefano Tassinari. Bene, per oggi è tutto, vi segnaliamo per la prossima settimana, oltre alla presentazione di Alberto Sebastiani, che sarà, ricordiamo, venerdì 27 alle ore 18:30 presso Modo Info Shop in via Mascarella. Vi ricordiamo il secondo appuntamento della rassegna Gramsci in giallo, che si sta realizzando all'oratorio San Filippo Neri di via Manzoni. Bene, per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey.